diese Privatisierung hat zunächst mal den Klassenwiderstand gebrochen, oder? E anche le rigidità della pubblica, no? Il quadro pubblico, no? È rigido, le regole pubbliche. Non si può licenziare, per esempio. Ach so, ja, und die Regeln, die Arbeitsbeziehungen, die mussten keine festen Arbeitsverträge mehr. Sì, perché l'impresa pubblica aveva come riferimento i lavoratori, la difesa del posto di lavoro, la condizione. Questa era la strategia, no? Però questa, diciamo, questo tipo di rigidità determinava una, era come una specie di catena, no? Per la telecom, catena, no? E infatti sono nate poi anche molte altre associazioni. Brutal, Fino, langsam. Also, wir waren an dem Punkt, dass also die Privatisierung jetzt neue Beziehungen herstellt, die Rigidität ist, also die Strenge ist verschwunden und es gibt jetzt neue Beziehungen, aber den Rest, ich kann mir nicht alles merken. Infatti, adesso ci sono, assieme alla Telecom, ci sono altre c'è la Wind, altre società, no? Also das gilt natürlich nicht nur für die Telekom, sondern es gilt auch für andere Gesellschaften. Però cioè, è chiaro che io come cliente mi sembra conveniente, non più la Telecom, ma è conveniente la Wind o altri tipi di impresa, no? La convenienza, cioè als Kunde kommt es mir auf die Zufriedenheit an. Esattamente, ma questa convenienza è dovuta al fatto che il lavoro non viene pagato. Aber diese Zufriedenheit besteht darauf oder beruht darauf, dass die Arbeit nicht bezahlt wird. Questa è la, perché la Telecom ha dei costi, no? E quindi anche l'impresa ha dei costi, ma ha la concorrenza tra Telecom e Wind o andere Gesellschaft è dovuta proprio the cost Arbeit ist reduziert. Allora la contraddizione, se vuoi tradurre, è che io come cliente mi conviene la BIM, però come lavoratore mi conviene la Telecom. Also als come ideologia, no? O filosofia sociale. Ja, als Kunde gehe ich natürlich zu dem Privatanbieter oder überzeugt mich mehr oder macht mich der Privatanbieter mehr zufrieden. Als Arbeiter wäre ich lieber bei der Telekom, also bei der alten Wohl. Questo è la e tutti cioè e quello che sta succedendo adesso è che noi siamo molto spaccati come persone perché abbiamo da una parte abbiamo il bisogno di difendere il reddito e il lavoro e dall'altra abbiamo bisogno anche di difendere come singolarmente anche di avere costi bassi. Also es geht, man ist sozusagen als Person selbst gespalten. Auf der einen Seite als Arbeiter verteidigt man die Löhne, als Kunde möchte man wenig. Sì, è una grande contraddizione, no? Questa spaccatura della persona, no? Prima era il lavoratore, prima il lavoratore poi il cliente. Este Arbeit nach Kunde, no? Jetzt nella filosofia delle Leute, delle persone, c'è prima cliente, prima individuale. Die Leute verstehen sich selbst zunächst als Individuum, als Kunde und dieser Aspekt Arbeiter zu sein verschwindet dann. No, dico, questo è importante sulla fare una battaglia su call center, comunque su queste imprese, perché per chiarire anche la contraddizione tra cliente e lavoratore. Also und call center findet er deshalb so wichtig, weil hier dieser Widerspruch irgendwie deutlich zutage tritt, weil es hier diesen Widerspruch irgendwie zu klären gilt zwischen Klient, zwischen Quatsch, Kunde und Arbeiter. Prima della rivoluzione c'è bisogno di fare coscienza. Also bevor man über die Revolution diskutiert, müsste man quasi darüber Bewusstheit herstellen. C'è una e poi c'è quella cosa dell'università che volevo dire sulle lotte che conosco meglio. Quello dell'università è che gli studenti cioè diciamo che il capitalismo post-fordista ha bisogno di innovazioni, formazione.